Prova. Buonasera. Ma ci siete o... Oh! Solitamente quando le rockstar dicono buonasera, cioè scatta il casino, no? Noi siamo gli Atomic Clocks, e molti di voi già ci conoscono, altri no. Siamo un gruppo formato da tre fiorentini e un palermitano, strano ma è così. Siamo pronti? Scusate, fa freddo, è un turbone lui. Prima ti attacchi il basso.